Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Benvenuti, oggi facciamo un test, il momento ideale per misurare il benessere e anche la salute delle nostre mani. Al mattino presto, siete svegli? Allora pronti? Intanto vi presento la nostra ospite di oggi, la dottoressa Simonetta Odella. La dottoressa Odella è un chirurgo della mano. Nicoletta, buongiorno, grazie. Perché la mano ha il suo chirurgo dedicato. Ebbene sì, ha un chirurgo dedicato solo a lei. E noi ce l'abbiamo qui con noi oggi, quindi iniziamo di prima mattina a fare questa sorta di test di autovalutazione. La dottoressa Odella lavora all'Istituto Ortopedico Gaetano Pini, che è un istituto ortopedico di grande tradizione che si trova a Milano. Dottoressa Odella, la faccio lavorare anche di primo mattino. Voilà. Allora, ma con piacere. Occorrente un anico, la vostra ossessione quotidiana, due mani, perfetto. Una dottoressa Odella che vi parla. Andiamo. Beh, insomma, il risveglio può essere un risveglio piacevole se le nostre mani ci hanno lasciato dormire tutta notte. Alle volte però, insomma, le nostre mani di notte ci svegliano. Ci svegliano con il formicolio, ci possono procurare dolore e quindi ci svegliamo con proprio un gran fastidio e dobbiamo scrollarle per cercare di far passare questo fastidio. Lei parla al plurale, ma questo formicolio può interessare tutte e due le mani oppure una sola? Alle volte una sola, alle volte ahimè tutte e due le mani. Tutte e due, tanto per non perderci nulla. Eh sì. Secondo indicazione che possiamo avere delle nostre mani? Possiamo avere al risveglio le mani un po' rigide. Questo capita quando abbiamo normale, ahimè, invecchiamento articolare, non ci sono altre parole, quando c'è un po' di artrosi, la mattina le nostre mani sono un pochino più rigide e quindi bisogna muoverlo un po' in modo tale da rendere le articolazioni più fluide e così possiamo iniziare poi bene la nostra giornata. Dottoressa Odella, e se invece è un dito o due dita a darci qualche problema al mattino, lo inseriamo nel nostro test? Ma certo, alle volte ci sono invece delle tendiniti, delle infiammazioni dei tendini che fanno sì che lo spazio di scorrimento di questi tendini nel palmo della mano si riduce. Di notte ci gonfiamo un po' perché stiamo fermi tutta la notte, i tessuti molli periferici si gonfiano e lo spazio di scorrimento si riduce ancora di più. E quindi il nostro dito si può, usiamo una parola non molto medica, si può incastrare. Flesso nel nostro palmo. E dobbiamo aiutarlo con l'altra mano ad estendersi nuovamente. Quindi formicolio notturno, una certa rigidità, artrosi oppure qualche dito a scatto. Ecco, il famoso dito a scatto. Io ho detto di solito il medio, l'anulare, quale delle dita è più? Ma scattano un po' tutti, medio, anulare, anche pollice. Le dita c'hanno i loro siamo carattere. Democratici. Dottoressa Odella, però ci sono delle novità, nuovi approcci, nuove soluzioni per queste situazioni che lei ha descritto, che individuano dei problemi abbastanza comuni. Il formicolio rimanda subito al canale famoso carpale. Tunnel carpale, canale si dice meglio. Tunnel carpale, canale carpale, come va vogliamo. Bene, come volete anche voi. Quali novità? Ma novità, purtroppo è il nervo mediano che rimane compresso a livello del canale del carpo, dal legamento trasverso, che è un legamento che lo sovrasta. Alle volte questo legamento si spessisce, schiaccia il nervo. E perché di notte fa più male? Perché di notte, come già abbiamo detto, i tessuti molli periferici si gonfiano e quindi lo spazio per questo nervo si riduce ulteriormente. E lui si lamenta, giustamente. E lui giustamente si lamenta. E perché di notte inconsciamente curviamo i nostri polsi e li riportiamo nella posizione fetale, per cui aumenta la pressione dentro al canale carpale e questo fa sì che ancora una volta il nervo si lamenti. Di notte torniamo bambini. Per fortuna, almeno, no, di notte. Almeno di notte. Dottoressa Odella, ci sono dei fattori, oltre agli anni e anche a questo inspessimento, questa mancanza di spazio, che possono predisporre al tunnel carpale? È una malattia che noi chiamiamo idiopatica, per cui non c'è una vera e propria causa. Ci sono dei fattori che sì, possono causare questa sofferenza del nervo mediano, perché si riduce lo spazio all'interno di questo canale. C'entra il mouse? È difficile stabilire un rapporto di causa-effetto, è un argomento molto dibattuto, ma non c'è ancora un'evidenza scientifica. Le persone che stanno molte ore alla guida? Questo sicuramente, anche il mouse, perché è una questione di posizione che noi teniamo, che fa sì che ci sia un aumento della pressione endocanalare che disturba il nostro nervo, ma anche le tendiniti dei flessori che scorrono insieme al nervo all'interno di questo canale. Quando abbiamo i tendini che fanno piegare le nostre dita, che si infiammano, si gonfia la guaina che li riveste, quindi si riduce lo spazio per il nostro nervo mediano. Quindi ci sono condizioni che sì, possono provocare questa situazione. Se mi trovo descritto in questo profilo, dottoressa Della, che cosa posso fare? Beh, può andare da un chirurgo della mano in modo tale da fare una visita specialistica e fare dei test che ci permettono di capire se effettivamente è una compressione a livello periferico, perché i nervi iniziano da lontano, noi partiamo dall'arachide cervicale per arrivare poi fino alla mano, quindi i livelli di compressione possono essere molteplici, se effettivamente quindi è una causa periferica. Di solito, quando c'è il sospetto di una compressione del mediano al carpo, si richiede un'indagine che si fa dal neurologo, che è l'elettromiografia. È molto importante perché studia la salute del nostro nervo e il livello in cui può essere eventualmente compresso, schiacciato. Una volta che sappiamo che c'è effettivamente una compressione del nervo mediano al carpo, se è di grado lieve e quindi è solo un formicolio e un dolore saltuario durante la notte, la terapia è assolutamente conservativa. Oh, questa è una buona notizia. Poi detto da un chirurgo della mano, mi piace ancora di più, il che vuol dire che si usa una polsiera di notte per evitare di piegarlo, ecco, che ci crea il dolore, alle volte con anche dei neurotrofici che si prendono, degli integratori, si riesce a regredire. Non bisogna però aspettare troppo tempo, perché se il nervo rimane compresso per troppo tempo, troppo a lungo, anche una volta operato, cioè una volta sezionato il legamento che lo sovrasta, non si ha un completo recupero della sensibilità periferica. Si risolve il dolore di notte, questo sì, ma non sempre si ha un recupero della sensibilità. Dottoressa Della, la ringrazio per essere stata con noi. 349-238-6666, a questo punto messaggi WhatsApp, dillo all'amico. Guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Bene, un buon consiglio probabilmente a inizio settimana è di provare a prenderla un po' con filosofia. E questo è il titolo della rubrica di questa settimana. E parlando di filosofia, ho invitato un filosofo, Leonardo Caffo, che è in studio con me. Ciao. Ciao, buongiorno. Si può dare del tuo filosofo? Beh sì, del voi no, perché sono da solo. Allora, noi la prenderemo con filosofia per tutta questa settimana partendo da... Ma partiamo da un filosofo vero, diciamo, che si chiamava Henri David Thoreau, un filosofo importante della metà dell'Ottocento americano, nato nel Massachusetts, si chiamava New England. Era un filosofo che ha spiegato come provare a vivere bene, chissà se ci è riuscito. Dacci delle indicazioni per focalizzarlo, perché è un filosofo importante di cui noi abbiamo sentito leggere. Ma il suo libro più famoso si chiama Walden, ovvero Vita nei boschi, e per esempio nell'Attimo fuggente c'è una scena epica in cui viene letto parte di questo libro, Torno al fuoco, ha ispirato la Beat Generation, quindi a Patti Smith per esempio, è stata una grande lettrice di Thoreau, Piccole donne è un libro che viene fuori da questa tradizione, Gandhi, Luther King. Insomma, è un Può arrivare, no? Può venire a Obiettivo Salute. Può venire a Obiettivo Salute, per esempio, un altro libro importante quasi quanto Walden, se non di più, che si chiama La disobbedienza civile, dove nasce quasi il termine che poi è stato utilizzato, lo sappiamo, da tutti i vari intellettuali, attivisti, eccetera. Thoreau inizia questo libro con questa piccola frase che secondo me ci può aiutare molto: il migliore dei governi è quello che non ci governa più. Quando gli uomini saranno pronti, sarà questo il governo che avranno. Non significa essere contro il governo, ma significa provare a pensare la propria vita come un autogoverno, cioè non aspettare sempre che siano gli altri a sistemarti le cose, a dirti cosa fare, come fare o dove farlo, ma provare ad autolegittimarsi. Questa cosa Kant, un altro filosofo, la chiamava l'autonomismo morale. Certo, bisogna vivere in un governo che deve essere il migliore possibile, ognuno ha le sue preferenze, ma anche imparare da soli a governare la propria vita. In un minuto, ci puoi dare una dritta per allenarci ad autogovernarci? C'è quella famosa frase che viene da un signore che si è ispirato a Thoreau: sii tu il cambiamento che può venire nel mondo, no? Che è una frase famosa. Sii tu la giornata che vorresti vedere, cioè provare in qualche modo ad avere dei micro obiettivi e a portarli a termine senza aspettare che siano gli altri a sistemarteli. Si può fare. Si può fare, voi lo farete? 349-238-6666, ditelo all'amico, ma io direi in questa settimana ditelo al filosofo per amico, Leonardo Caffo. Seguiteci, provate a mettervi un po' in gioco in questa settimana per prenderla con filosofia. Leonardo, noi ci sentiamo domani. A domani.